Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questo è il programma di Radio 24 che va in onda due volte al giorno e che parla di cronaca prevalentemente, ma anche di politica, delle città, di costume e di spettacolo. Li hanno chiamati gli angeli del fango di Genova. Sono uomini e donne, studenti, operai, imprenditori, volontari, pensionati che hanno iniziato a liberare il fango dalle strade già nelle ore successive all'alluvione che ha colpito venerdì Genova. È accaduto oggi come nel novembre del 66 a Firenze. Il reportage di Cristina Carpinelli. Mi auguro, ma purtroppo finché si ragionerà sul fatto che essendoci stata la crisi economica si è disinvestito sulla sicurezza, quindi finché si ragionerà così sarà difficile, però mi auguro fra 40 anni di non dover dire a dei giovani che vanno a spalare il fango perché c'è stato un disastro e dei morti che io c'ero nel 2011. Io spero che non riaccada, però purtroppo ho dei dubbi. Però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare con questi. Ha ragione Federico Romani, 33 anni, da sabato mattina vanga in spalla a buttare via chili e chili di fango. Oltre tutto quello che è stato già detto, c'è una cosa che colpisce in modo forte in tutta questa storia ed è l'utilizzo della parola noi. Di tutte le persone intervistate nessuna ha parlato mai in prima persona. E noi che siamo gente di Riviera, passano i cuori da te. C'era quel noi che dominava su tutto, ad evocare una città intera al lavoro. Sergio Meneghello è uno dei volontari dei Camalli. Scusi, c'ho un fiatone, ma stavo spalando. Ti dico, cioè praticamente si è ammucchiato fango, detriti, poi al piano ci sono officine, ci sono appartamenti. Cioè tantissimo fango, tanta roba la stiamo portando via che è da buttare via. La situazione è come un po' quella che c'è un po' in tutta Genova, diciamo. Prendiamo il fango, portiamo via la roba che la gente ci dice che è da buttare, perché giustamente poi noi non possiamo prendere le cose così e buttarle via, quindi le persone del posto ci dicono cosa dobbiamo portare via, cosa dobbiamo buttarli via e niente. Poi vabbè, li abbiamo portato un po' di qualcosa, un mio socio ha portato un po' d'acqua, un po' di pane, un po' roba da mangiare così per la gente che comunque viene a dare una mano. Insomma, si cerca di fare un po' quello che si può, giù con due camion nostri, con tre camioncini nostri, tre cassonati per portare via i detriti. Noi sì, ci siamo, noi la nostra storia è un po' questa. La solidarietà verso gente che sta peggio di noi e che sta anzi disperata in questo periodo è qualcosa di naturale, diciamo, per noi. La mia città è giusto fare così, insomma, in questi momenti mi sembra il minimo. Cioè, mi sarei fatto schifo da solo se fossi stato a casa a non far niente. Dal portare fuori dei locali, dei frighi pieni di lattine, di bottiglie di vetro, di lattine, a spalare fango, a fare le catene col passamano per sgomberare i magazzini, a portare su delle cuffie piene di fango dagli scantinati. Quindi questo era quello che si è fatto e che c'era da fare. La gente ci ringraziava, ovviamente, erano con una, diciamo così, disperazione contenuta, ecco, però si vedeva che erano messi male, ci ringraziavano molto dell'aiuto che gli avevamo dato. Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, questa è la questione, nel senso che un'altra squadra di gente che oggi non lavora, con dei mezzi della compagnia unica, è andata a dare una mano sempre nei luoghi disastrati. Vanno in giro a migliaia i ragazzi di Genova e non si stancano di cercare un angolo da pulire, tanto che dalla Protezione Civile fanno quasi fatica ad organizzarli, come ci racconta Marco Cugè, presidente di AssoCivile. Bellissimo, noi abbiamo a Genova adesso un marasma di volontari. La cosa più difficile a questo punto è far capire alla gente di non smontarsi se non riesce a trovare un degno impiego. Cioè c'è un'enorme forza che purtroppo è difficile poter impiegare in questa maniera. E quindi voglio dire, la giro in questo senso, a futura memoria ovviamente, chi sente in questi momenti una spinta così forte a dare una mano, ci pensi per tempo prima, quando non succede niente, e trovi delle forme più codificate, più istituzionali di partecipazione, perché poi in questi momenti, cioè, a me, voglio dire, mancano i volontari, nel senso che i miei sono stanchi, sono in difficoltà eccetera, avrei bisogno di volontari, ma li dovrei avere già formati, li dovrei avere già preparati, già equipaggiati. Nella scuola della bambina morta venerdì, assieme alla mamma e alla sorellina, sono arrivati silenziosi tantissimi ragazzi, racconta così Magda Lodi, dirigente scolastica della scuola Giovanni XXIII di Marassi Alta, al microfono di Maria Piera Ceci. Ieri appunto si era qui tutti, era domenica, ma eravamo tutti qui. Guardi, moltissimi mi hanno risposto che erano di Marassi, di questo territorio, e che si erano organizzati per aiutare. Anche oggi sono qua. Adesso, oggi in particolare, c'è qui un gruppo, tra l'altro i Boy Scout, qui all'interno, al piano terra, che stanno facendo proprio la pulizia della pavimentazione, della palestra, perché al piano terra c'è anche la palestra. Sono ragazzi anche quindi delle altre scuole, delle scuole superiori, che in questi giorni non vanno... Sì, guardi, moltissimi sono venuti proprio, sono ex allievi. È stato insomma bellissimo scoprire tutta questa solidarietà, questo affetto, perché i ragazzi si sono proprio avvicinati alle insegnanti con grande passione, col desiderio di sapere come andava, se la scuola era ancora in ordine, se poteva proseguire il suo servizio, perché tanti hanno proprio i fratelli e le sorelle qui. Ed è un fiume di persone quello che si vede in giro per la città. Un fiume che ha commosso tutti, dice Antonio Benvenuti, il console dei Camalli. I portuali che hanno aiutato e stanno aiutando. Dice Benvenuti che i suoi ragazzi lo hanno tempestato di chiamate. Possiamo andare ad aiutare? Chiedevano. Che sabato e venerdì già quelli che erano in festa dal lavoro, perché noi abbiamo dovuto anche, tra l'altro, coprire il lavoro, perché il porto non ha chiuso, c'era 13.000 passeggeri sabato mattina, proprio nella mattinata clou dove occorreva fare questo volontariato, quindi 13.000 passeggeri in un porto vuol dire macchine che arrivano, camion che arrivano, non è che ci abbiamo pensato in tanti, quindi abbiamo dovuto garantire la presenza dei nostri uomini a caricare e scaricare passeggeri, merci e camion. Chi è rimasto un festa sono venuti su da me, la chiamata, tenga conto che funziona un po' da centro logistico per noi, quindi a chiedermi di poter andare a dare una mano in città. Conseguentemente gli ho detto, vabbè ragazzi, usate pure il passaparola dei nostri SMS, programma di chiamate di compagnia, e chi è disponibile, chi non è a lavorare stanotte, oggi pomeriggio o domani, faccia pure l'andata, vediamo qualche mezzo per accompagnarvi, e così è stato. Poi mi hanno raccontato un po' logistiche, poi c'era parecchia gente, ultras delle curve, delle tifoserie, c'erano lavoratori in cassa integrazione dell'Ansaldo, dell'Ilva, cantieri, tanti giovani, anche studenti. Tutti chini a raccogliere, spalare, i vecchi ringraziano, ma se chiedi loro se sono sorpresi, ti rispondono che sono commossi. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti. Acqua per... Sono tante le testimonianze che arrivano da Genova, come ci racconta Andrea Ferro. È da Pisa. È la prima volta che trovi una situazione del genere? Sì, sì, non mi era mai capitato. Però è bello vedere tutta la gente che lavora così, senza guadagnarne nulla. Perché è la nostra città e vogliamo che questo disastro non la cambi molto. Quindi un atto d'amore verso la tua città? Certo. Abbiamo pulito tutta via Ferraggiano e l'incrocio. Quanti anni hai? 16. Sì, io, alcuni di loro sono i miei compagni di classe, poi sempre comunque amici, andiamo in giro insieme. Diamo una mano, sistemiamo Genova più rapidamente possibile. Perché ci pare giusto e perché comunque io personalmente amo molto la mia città e non potevo sopportare di vederla così. Mi hanno dato una mano qua in questo negozio che era veramente malmesso. Questi ragazzi cresciuti a Focaccia e Odore di Mare sono genovesi anche quando di cognome fanno Marshall 6. È la storia di David, rugbista, ventenne. Perché abbiamo creato questo gruppo che si chiama Noi nel Fango Ci Muoviamo Bene. Siamo del Genova Rugby e noi con le giovanili e un sacco di altri amici siamo... Volevamo già intervenire venerdì, però purtroppo per motivi di sicurezza e per il fatto che stava piovendo così forte non si poteva fare niente. Poi sabato mattina siamo visti in piazza Manzoni, ci siamo iscritti insieme a tutti gli altri e siamo andati in giro. Vabbè, non lascio immaginare quello che abbiamo visto, ma... Storie tante che una in fila all'altra raccontano di questa città bella, che più bella non si può, soprattutto oggi che, come dicono i genovesi, abbiamo fatto uscire anche il sole. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, trovate anche un post nel nostro blog su radio24.it dedicato proprio a Genova, come su Facebook abbiamo la pagina e il gruppo e siamo anche su Twitter. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di stretta attualità.